Pagine per il futuro. Bentrovati a un nuovo appuntamento con Pagine per il futuro, il progetto del Piccolo Teatro di Milano e Radio 24 che propone in riduzione radiofonica un classico della letteratura, drammatizzato da attori del piccolo e commentato da una personalità del mondo dell'economia, della cultura o della politica. Il libro di oggi è Tre uomini in barca per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. A commentarlo per noi c'è Cesare Rimini, avvocato, scrittore e editorialista. L'intervista è di Simone Spezia. Tre giovani uomini inglesi, stanchi della routine londinese e per questo un poco ipocondriaci, risolvono di porre fine ai loro tormenti con una vacanza rigenerante. La loro voglia di evasione, che nel corso del libro apparirà più semplicemente come l'ennesima trovata di una piccola brigata abituata a decisioni strambe, è l'espediente narrativo per uno dei libri umoristici più venduti nella storia dell'editoria mondiale. Eravamo in quattro. Giorgio, Guglielmo Samuele Harris, io e Montmorency. Seduti nella mia stanza si fumava e si parlava di come stessimo male. Male, intendo, rispetto alla salute. Rimanemmo lì una mezz'ora a descriverci a vicenda le nostre malattie. Nessuno di noi era certo di ciò che in quei giorni lo tormentava, ma fu opinione unanime che, qualunque cosa fosse, era effetto del troppo lavoro. Noi abbiamo bisogno, disse Harris, di riposo. Di riposo ed un mutamento completo, aggiunse Giorgio. Lo sforzo sul nostro cervello ha prodotto una depressione generale di tutto l'organismo. Il cambiamento d'aria e l'assenza della necessità di pensare ci ridaranno l'equilibrio mentale. Convenni con Giorgio e suggerii che dovevamo scovare qualche punto deserto e ignoto, lontano dalla folla matta e frettolosa, e passare in quei sentieri sonnolenti una settimana piena di sole. Un posticino obliato, nascosto dalle fate, irraggiungibile dal mondo. Qualche strano nido accoccolato sulle rupi del tempo, dove l'eco delle incalzanti onde del secolo XIX non giungesse che remoto e fievole. Harris disse che un posto simile sarebbe stato scomodo. Sapeva ciò che io intendevo. Un luogo dove si andava a letto con le galline, dove non si poteva avere una indiscrezione neanche a pagarla un occhio e bisognava fare 10 miglia a piedi per fare la provvista di tabacco. No, disse Harris. Per godere di un po' di riposo e cambiare d'aria non c'è nulla di meglio d'un viaggio di mare. Io mi opposi vivamente al viaggio di mare. Non come spiegai per me, giacché non ero mai stato strano e fantastico, ma per tema di Giorgio. Giorgio disse che quanto a lui gli sarebbe piaciuto, ma che consigliava me e Harris di non pensarci, perché era certo che noi ci saremmo sentiti male. Harris osservò che per lui era un mistero come mai avvenisse a tanti di soffrire il mal di mare. Forse lo facevano a bella posta per affettazione. Lui, per quanto ci si fosse provato, non ci era mai riuscito. Strano, ma nessuno ha il mal di mare a terra. In mare si incontrano a iosa persone veramente in cattive condizioni, se ne incontrano bastimenti pieni, ma in terra non ho ancora incontrato alcuno che sappia che cosa sia il mal di mare. Dove le migliaia e migliaia di cattivi marinai che sciamano in ogni bastimento si nascondano quando sono in terra è per me un mistero. Per conto mio, io ho scoperto nell'equilibrarmi un eccellente preventivo contro il mal di mare. Vi mettete in piedi nel centro del ponte e, come il bastimento si solleva e s'abbassa, vi girate col corpo in maniera da tenervi sempre ritto. Quando la prua si alza, vi chinate in avanti finché la tolda vi tocchi quasi il naso e quando si alza la poppa, vi appoggiate all'indietro. Questo va benissimo per un paio d'ore, ma non potete stare a equilibrarvi per tutta una settimana. Giorgio disse: risaliamo il Tamigi. Ed è la parte iniziale di un libro umoristico straordinario, che è Tre uomini in barca per non parlare del cane o per tacere del cane, questo a seconda delle traduzioni. A sceglierlo è stato Cesare Rimini. Come mai ha scelto questo libro e come mai lo ha letto da ragazzo e l'ha affascinato così tanto da ragazzo? Devo dire che per me è un ricordo proprio legato al periodo in cui io ero con la mia famiglia sotto falso nome nel 1944. Noi avevamo paura delle SS, avevamo paura delle brigate nere. Perché la sua famiglia è in parte di origine ebraica. In parte di origine ebraica, eravamo rifugiati lì sotto falso nome. Io ho scritto persino un libro che si chiama Una carta in più, perché il segretario comunale di Gabice regalò a mio padre le carte false per tutto tutti noi, il mio nome da Rimini era diventato Ruini, i nostri amici vivanti erano diventati poco modestamente Vivaldi, i miei cugini Finzi erano diventati Franzi, e questo libro piaceva a mio padre, e allora eravamo in guerra con l'Inghilterra, perciò questa scelta di mio padre aveva anche un significato polemico, se si vuole, e forse un po' politico. E io ricordo benissimo quando mio padre, per tirar su se stesso e anche me, mi consigliò di leggere questo libro. Io sono sicuro che tutti capiscono con che emozione io ne ho parlato scherzosamente adesso. Anzi, c'è una cosa così britannica, così londinese, con tutti i luoghi citati, che era proprio esattamente il contrario di quello che io e la mia famiglia stavamo vivendo. Sapevo di avere il fegato ammalato perché avevo appunto letto un annuncio di pillole brevettate nel quale si specificavano minutamente i vari sintomi dai quali il lettore poteva arguire d'avere il fegato malato. Io li avevo tutti. A ogni modo, ricordo di essere andato un giorno al British Museum a leggere il trattamento di un piccolo malanno del quale avevo qualche leggero attacco, credo che fosse la febbre del fieno. Mi feci dare il libro e lessi tutto quello che dovevo leggere e poi, in un momento d'oblio, voltai oziosamente le pagine e cominciai a studiare indolentemente le malattie in generale. Non ricordo più il primo morbo nel quale mi immersi, so che era un pauroso flagello devastatore, e prima che avessi dato un'occhiata a una metà della lista dei sintomi premonitori, ero già belle convinto di esserne affetto. Rimasi per un po' agghiacciato d'orrore, e poi, nell'incuranza della disperazione, mi misi a voltare le altre pagine. Arrivai al tifo, ne lessi i sintomi, scopersi d'averlo. Dovevo averlo da mesi, senza saperlo. Mi domandai che altro avessi, incontrai il ballo di San Vito, trovai come m'aspettavo d'avere anche quello. Cominciai a interessarmi al mio caso e, risoluto ad andare fino in fondo, cominciai per ordine alfabetico. Lessi della malaria e appresi che ne ero affetto e che la fase acuta sarebbe cominciata fra una quindicina circa. Mi consolai trovando che l'albuminuria l'avevo soltanto in forma attenuata e che quindi, per quel che mi riguardava, sarei potuto vivere ancora anni e anni. Avevo il colera, con gravi complicazioni, e sembra che con la difterite ci fossi nato. Percorsi faticosamente, coscienziosamente tutte quante le lettere dell'alfabeto e potei concludere che l'unica malattia che non avessi era il ginocchio della lavandaia. A questo sulle prime mi sentii un po' offeso. Mi sembrava che la cosa implicasse una specie di dispregio. Perché non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa oltraggiosa distinzione? Dopo un poco, però, prevalsero dei sentimenti meno esclusivi. Pensai che avevo tutte le malattie note in farmacologia e divenni meno egoista e risolsi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. Il ginocchio della lavandaia. Il ginocchio della lavandaia è straordinario. Sintomo, il simbolo di questo libro. E poi nelle righe che abbiamo sempre sentito dire, George che teme di essere un po' snob perché di tutte le malattie l'unica che non ha è il ginocchio della lavandaia. E questo proprio timore di essere snob lo trovo francamente molto British, insomma. Poi questo tema della voglia di non far niente e dell'ozio che veramente domina tutto il libro, questa breve gita sul Tamigi e che viene introdotta da chi racconta in prima persona con questa questione della malattia di fegato, che è chiaramente un pretesto. Un pretesto che giustificherebbe quella, la voglia di non far nulla. Fin da ragazzino George dice che lui non era svogliatissimo, insomma. È vero, il fascino di questo libro, forse così lontano dalla vita che conduciamo tutti, è il far niente, cioè questa ricerca raffinata di dire dove andiamo in mare, e poi alla fine si pensa che il più comodo è il Tamigi, che pure invece ha le sue problematiche. Però, parlando sempre della mania, delle malattie, io trovo che c'è un'altra figura appena tratteggiata stupenda, che è quella dell'ottimo medico. Andai dal mio medico, lo trovai ed egli mi disse: bene, che c'è? Non ti farò perdere tempo, caro amico, risposi, col farti l'elenco di ciò che ho. La vita è breve e tu potresti andartene prima che io avessi finito. Ti dirò invece quello che non ho. Non ho contratto il ginocchio della lavandaia. Non capisco perché non ho il ginocchio della lavandaia, il fatto sta che non l'ho, ma tutto il resto l'ho. Allora egli mi aperse la bocca, mi guardò dentro, mi afferrò il polso, mi picchiò il petto. Dopo si sedé a scrivere una ricetta, la piegò, me la diede e io me la misi in tasca e me ne andai. Lessi la ricetta. Diceva: una libra di bistecche, con una pinta di birra amara ogni 6 ore, una passeggiata di 10 miglia tutte le mattine, uno letto alle 11 in punto tutte le sere. E non ti ingombrare la testa di cose che non capisci. Ma un po' di nostalgia per un'epoca nella quale, insomma, ci si poteva consentire ore libere così lunghe, sì, anche d'improvviso. Sì, no? È un mondo assolutamente diverso. Del resto, Jérôme morì, ho visto, nel 27, e perciò questa storia è per gente che non aveva francamente nulla, assolutamente nulla da fare, questo bisogno di cambiare aria e di prendere il Tamigi come sede di questi 15 giorni di vacanza. La nostra barca ci aspettava a Kingston, sotto il ponte, e verso di essa ci indirizzammo, e intorno a essa ammucchiammo il bagaglio, e in essa discendemmo. «Pronti, signori?» disse l'uomo che la custodiva. «Pronti», rispondemmo, e ci slanciammo sulle acque che ci avrebbero fatto da casa per una 15. Issammo la vela e ci spargemmo per la barca in atteggiamento pensoso, mentre essa cominciava a gonfiarsi, a tendersi, a garrire intorno all'albero con la barca che volava. Ero io al timone. Non conosco più acuta sensazione del navigare a vela. Par quasi di volare. Le ali del vento sembra che vi portino in su, non si sa dove. Voi non siete più il lento, faticoso, misero essere d'argilla che striscia tortuosamente per terra. Siete una parte della natura. Il vostro cuore pulsa contro il suo petto, le sue gloriose braccia vi cingono, sollevandovi fino al suo cuore. Il vostro spirito forma un unico spirito col suo, le vostre membra sono diventate leggerissime, le voci dell'aria vi cantano nell'orecchio, la terra sembra remota e piccina, e le nuvole così vicine alla vostra testa sono sorelle a cui voi stendete le braccia. Noi avevamo il fiume tutto per noi. In distanza potevamo vedere una zattera da pesca ormeggiata in mezzo alla corrente e carica di 3 pescatori. E noi sorvolavamo sull'acqua e passavamo accanto alle rive boscose, senza dire una parola. Ero io al timone. I 3 uomini occupati a pescare avevano un aspetto di solenne vecchiaia. Sedevano su 3 sedie nella zattera e vigilavano attenti le lenze. E il tramonto rosso proiettava una mistica luce sull'acqua, tingeva di fuoco i boschi circostanti e faceva una gloria d'oro alle masse di nuvole. Era un'ora di profondo incanto, d'estatica speranza e di desiderio. La piccola vela s'allargava contro il firmamento di porpora. Il crepuscolo ci stava intorno, avvolgendo il mondo in ombre di arcobaleno. E dietro di noi strisciava la notte. Noi sembravamo cavalieri di qualche vecchia leggenda, veleggianti per qualche mistico lago nel regno inesplorato del crepuscolo verso la gran terra del tramonto. Non andammo nel regno del crepuscolo. Andammo a sbattere contro la zattera dove quei 3 vecchi stavano a pescare. C'è questo elemento, lei ce lo accennava già, lei è un velista, mai capitato di scontrarsi con una chiatta ai pescatori come è successo ai nostri 3 amici? Questo non è mai capitato. Però la bellezza della barca a vela, che descrive in un modo perfetto cosa vuol dire andare in barca a vela, questa capacità di adesione alla natura. Andare in barca a vela non è mai andare contro, perché i motori vanno contro, invece la vela va a seconda del vento, utilizza il vento. Cioè nel libro c'è una descrizione di cosa vuol dire andare a barca a vela che è perfetto. Riprendiamo la risalita del Tamigi in compagnia di Giorgio, Harris e lo stesso autore, Jérôme. 3 inesperti navigatori, 3 pesci fuor d'acqua, pronti a ogni genere di gag nel più classico stile umoristico britannico. A ricordarlo e rileggerlo, per noi l'avvocato Cesare Rimini, intervistato da Simone Spezia. Ritrovo, come dire, l'idea che un certo tipo di umorismo che tendiamo a ritenere tipico dei nostri tempi e che troviamo nei monologhi dei nostri comici molto spesso anche in televisione, sia in realtà qualcosa di evidentemente già visto e detto in maniera ancora più magistrale, no? Sì, questo è proprio questa capacità di scandire la vita di questi tre personaggi e del loro cane rispetto alla vita normale, cioè sembrano praticamente degli sciocchi che non fanno nulla. La verità è che sanno trarre dalla loro vita la gioia di vivere. C'è un richiamo proprio a Buster Keaton, ad esempio, cioè a Charlie Chaplin. Ci sono queste disconnessioni, insomma, dove questi parlano di cose che sembra che non interessino assolutamente a nessuno. E come dicevamo prima, proprio la assenza del lavoro, cioè proprio il lavoro è sullo sfondo nebbioso del libro, non si vede mai. Non viene mai nominato, cioè non viene mai detto che lavoro facciano i nostri tre scapoli, supponiamo, perché non lo dicono esplicitamente, ma nella sostanza è proprio così. C'è un scollamento dalla realtà che viviamo tutti i giorni. Ma ha mai pensato di farlo, di prendersi una barca e fare il Tamigi? Non l'ho mai pensato, però devo anche dire che ho anche il Po, per dire, ecco, sì. Sul Po ho preso la patente nautica, e ricordo ancora sdraiato sulle panchine mentre dovevamo fare l'esame sul Po, io e mio figlio, che avevamo fatto una colazione straordinaria sull'erba, cioè. Però io ho un nipotino che mentre parlo è a Cambridge, come, e mi ha detto ieri che lui col papà e la mamma sono andati in barca sul Tamigi. Cioè questo è proprio una connotazione. Cambridge, quindi più rematore che velista, probabilmente. Sì, quello sì. Invece qui loro a vela sono assolutamente straordinari. Eravamo di ritorno da un bagno e a mezza via per il corso un gatto balzò fuori da una delle case di fronte e cominciò a trotterellare nella via. Montmorency diede un latrato di gioia, il grido di un grave guerriero che vede il nemico caduto nelle sue mani, la specie di grido che Cromwell avrebbe potuto cacciare quando gli scozzesi scesero per la collina, e si scagliò dietro alla preda. La sua vittima era un grosso gatto nero. Non avevo mai visto un gatto più grosso, né un gatto dall'aspetto meno rassicurante. Aveva perduto la coda, un orecchio e una parte del naso. Montmorency si scagliò dietro quel povero gatto alla velocità di 20 miglia all'ora, ma il gatto non si mise a correre. Parve che non gli fosse lampeggiata l'idea che la sua vita era in pericolo. Trotterellò tranquillamente finché il suo possibile assassino non si trovò a un metro da lui, e poi si voltò e si sedette in mezzo alla strada guardando Montmorency con una soave, interrogativa espressione che diceva: «Sì, avete bisogno di me?» Montmorency non si perse di coraggio, ma v'era qualcosa nello sguardo del gatto che avrebbe potuto agghiacciare il cuore del cane più avventuroso. Esso si fermò improvvisamente. Nell'uno nell'altro parlò, ma la loro conversazione risultò abbastanza chiara. «Gatto, posso fare qualcosa per te?» Montmorency: «No, no, grazie.» Il gatto: «Parla pure, francamente, sai se hai bisogno di qualche cosa?» Montmorency, ritraendosi: «No, nulla, non volevo disturbarti. Temo d'essere incorso in un equivoco. Mi pareva di conoscerti. Mi duole d'averti disturbato.» Il gatto: «Buongiorno.» Allora il gatto si levò e continuò il suo trotterello, e Montmorency, adattando la coda accuratamente nella sua scanalatura, ritornò da noi e assunse una poco importante posizione nella retroguardia. Ancora oggi, se si dice la parola «gatto» a Montmorency, egli visibilmente si contrae e vi dà uno sguardo avvilito, come per dire: «Per piacere, non lo nominate.» Verso sera, Giorgio disse che, siccome c'era gran tempo innanzi a noi, si aveva l'occasione di tentare la preparazione di una buona, magnifica cena. Dichiarò che con la verdura, i resti del manzo freddo e tutti i rimasugli c'era da improvvisare un meraviglioso stufato irlandese. Giorgio raccolse della legna e accese il fuoco, e io e Harris ci mettemmo a mondare le patate. Il lavoro risultò la più gran cosa della sua specie che avessimo mai affrontata. Cominciamo allegramente, si potrebbe dire quasi leggermente, ma la nostra incuranza s'era bella e dileguata nel momento che la prima patata fu finita. Quando le fu tolta tutta la buccia e le furono tolti tutti i bitorzoli, la patata non c'era più. Almeno nulla che si potesse considerare quale una patata. Venne Giorgio e le diede un'occhiata. Essa era più o meno della dimensione d'una noce moscata. E gli disse: «Così non va. Dovete raschiarle». Così le raschiammo, ma era più difficile che sbucciarle. Sono di una forma così bizzarra le patate, tutte bozze, escrescenze, fossette. Lavorammo gaiamente per 25 minuti e avevamo raschiate 4 patate. Poi cessammo dicendo che ci sarebbe voluta tutta la sera per raschiare noi stessi. Giorgio disse che era assurdo avere solo 4 patate in uno stufato irlandese, così ne lavammo un'altra mezza dozzina e le mettemmo nello stufato senza sbucciarle. Aggiungemmo anche un cavolo, un paio di chili di piselli. Giorgio rimescolò il tutto e poi, avendo osservato che vi rimaneva tant'altro spazio, frugammo nelle due ceste e ne cavammo quanto ne potemmo cavare, da aggiungere allo stufato. V'era un mezzo pasticcio di maiale, un pezzo di prosciutto cotto avanzato, mettemmo anche quelli. Poi Giorgio trovò una mezza scatola di salmone e la vuotò nel recipiente. Disse che quello era il vantaggio dello stufato irlandese, ci si poteva sbarazzare d'un mucchio di roba. Fu un gran buon successo quello stufato irlandese. Un po' troppo pesante, forse, per uno stomaco debole, ma sostanzioso. Tre uomini in barca per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Intervista a Cesare Rimini di Simone Spezia. Voce di Stefano Guizzi. Riduzione radiofonica di Marco Rampoldi e Guido Scotti. Pagine per il futuro torna la settimana prossima.